Klik, klik, klik. Nuovo cinema. Klik, klik, klik. Questo è il nuovo cinema. Ti svegli in un film. Non puoi scegliere. La mia vita in un click. Sarebbe bello se tutte le volte che ho perso avessi vinto. Quando sono stato onesto avessi finto. Tutte le scene di sesso le vedrei rallentatore. Per ore, per ore, per ore. Ci sono cose che non puoi rimandare. Sarebbe bello se fosse on demand. Andrei avanti veloce, ma non cambierei canale. Ma non cambierei canale. Guardare come in un cinema. Noi siamo un grande film senza pubblicità. Vorrei mandare indietro il tempo a qualche anno fa. Peccato che la vita non è, non è, non è, non è on demand. La vita non è un film in DVD di serie B. Non va così. Sto nel mio mondo Aveli. Io vi farei fuori come in Kill Bill. Prendo appunti Moleskine. C'è chi scrive e chi fa script. Io che penso in HD. Non un piano B, ho un piano big. Mi parli dei tuoi piani e dico sì, belli. Ma sono un bugiardo, bugiardo come Jim Carrey. Tu vuoi posti in prima fila ma senza contare. Che più sei vicino allo schermo più vedi male. E il mondo sta a guardare come in un cinema. Noi siamo un grande film senza pubblicità. Vorrei mandare indietro il tempo a qualche anno fa. Peccato che la vita non è, non è, non è, non è on demand. Non è, non è, non è, non è on demand. Non è, non è, non è, non è on demand. Clic, clic, clic, nuovo cinema. Clic, clic, clic, nuovo cinema. Clic, clic, clic, questo è il nuovo cinema. Il mondo sta a guardare come in un cinema. Noi siamo un grande film senza pubblicità.